Europa 24. Un saluto da Alessandra Schepisi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie europee. In apertura il tema della Brexit, che tiene ancora banco al World Economic Forum di Davos. La Gran Bretagna non ha mai minacciato di diventare paradiso fiscale, ma se tagliata fuori dall'Unione Europea dovrà reinventarsi. Così Philippa Mond, cancelliere dello scacchiere britannico, chiarendo se la Gran Bretagna sarebbe pronta a un drastico taglio delle tasse nel caso di esclusione dal mercato comune europeo. A Mond ha spiegato che Londra vorrebbe un grado molto alto di accesso reciproco fra la Gran Bretagna e l'Unione Europea e che se ciò non fosse possibile, se fossimo tagliati fuori da questi mercati, ha detto, dovremmo reinventare noi stessi e trovare un altro modello. Sentiamo cos'altro è emerso oggi dal forum. Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, a Davos ha detto che al netto degli stimoli fiscali di Donald Trump, il protezionismo della nuova amministrazione americana potrebbe rallentare la crescita globale. Ci sono molte incertezze in vista, quali una forte competizione fiscale che, unita a quella commerciale, potrebbe far deragliare la crescita di molti paesi. Al sentimento di preoccupazione verso Trump, molto diffuso tra i 3.000 delegati del GOTA finanziario ed industriale mondiale riunito nelle media da Davos, si unisce anche il finanziere George Soros, che ha apertamente parlato di possibile svolta dittatoriale di Trump alla presidenza e ha ammonito gli investitori che il mercato potrebbe tornare sotto un clima di maggiore incertezza. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Davos. Il servizio civile europeo diventa realtà al via la prima possibilità concreta di aderire al corpo europeo di solidarietà. Si parte dall'area alpina italiana già nelle prossime settimane. Obiettivo finale: coinvolgere 100.000 ragazzi in volontariato e tirocini. Ecco le coordinate su internet per chi vuole già aderire al programma. I giovani volontari europei potranno presto iniziare a prestare i loro soccorsi e a dare la loro solidarietà nell'area alpina italiana, anche in emergenze come quelle che abbiamo visto in questi giorni. Che ha già aderito prima ancora che sia lanciato ufficialmente il progetto a cui sta lavorando la Commissione europea, cioè dare la possibilità a giovani provenienti da tutta Europa di fare volontariato, lavorando a progetti di cooperazione interregionale. Ed è stato presentato a Berlino lo scorso martedì il programma di cooperazione interregionale appunto dell'area alpina, che in Italia coinvolge Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano. Un primo evento di presentazione dei nuovi volontari Interreg si è svolto martedì a Berlino e altri ne seguiranno in queste settimane. L'iniziativa sarà gestita nell'ambito del nuovo Corpo Europeo di Solidarietà, creato nel dicembre scorso da Bruxelles, per dare ai giovani l'opportunità di partecipare ad attività solidali riguardanti situazioni difficili in tutta l'Europa. Per aderire basta cliccare su europa.eu/solidarity-org, inserire i propri dati, scegliere l'area di interesse volontaria o lavorativa e si verrà contattati da soggetti interessati che offrono subito un collocamento. E inoltre ci sono i fondi. Dal 2017 €1 milione sarà dedicato all'interno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per i giovani europei tra i 18 e i 30 anni che vogliono appunto lavorare dai 2 ai 6 mesi in un programma Interreg e prestare così aiuto nelle emergenze in tutti i paesi europei. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crescita economica ed inflazione nell'Eurozona riviste al rialzo quest'anno dagli economisti delle istituzioni europee. Secondo il sondaggio trimestrale della BCE, gli economisti prevedono ora una crescita economica dell'1,5% rispetto all'1,4% precedente, mentre per l'inflazione stimano un rialzo all'1,4% dall'1,2%. Per il 2018 il PIL è visto sempre a 1,5%, la disoccupazione dovrebbe continuare a migliorare e per il 2019 è vista in calo all'8,9%. Il difensore civico dell'Unione Europea, Emily O'Reilly, ha aperto un'indagine per conflitto di interessi sull'appartenenza del presidente della BCE, Mario Draghi, al cosiddetto Gruppo dei 30, che riunisce big della finanza e delle istituzioni bancarie. L'inchiesta è stata aperta sulla base dell'esposto di una organizzazione non governativa. In questa fase non ho preso posizione se non quella di garantire approfondimenti, afferma O'Reilly, che ha chiesto un incontro alla BCE. Stessa richiesta era stata formulata nel 2012 dal precedente difensore civico e Draghi venne assolto. E con questo è tutto, prossimo appuntamento con le notizie europee. In effetto notte un saluto da Alessandra Schepisi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.